Buongiorno. Che vuol dire? Che il Covid è nottambulo. La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo, cari amici di Runtime Radio, benvenuti a questa trasmissione del martedì che oggi si è spostata al giovedì per ragioni organizzative interne a Runtime Radio, visto che martedì è andata in onda Disordinati Informati di Michela, che quest'oggi non avrebbe potuto trasmettere, quindi ci siamo invertiti. www.rantemeridio.it per ascoltare la nostra radio, ma anche per andare sul pulsantino anche io, dove poter, volendo, anche contribuire a questo nostro progetto di radio. E proprio di radio poi parliamo un pochino oggi. Intanto mi permetto di fare i complimenti a Davide Gatti e Survival Hacking, che ha raggiunto i 100.000 download, che insomma è una cifra ragguardevole, devo dire. Come sapete, noi abbiamo superato il milione di download da poco tempo, e che tra l'altro, come diciamo anche nello spot sul sostenimento di Runtime Radio, vi ricordiamo anche che in realtà questa cosa è anche più sostanziale, diciamo così, perché nei tempi di Italian Podcast Network noi già superammo il milione di download. Quindi insomma, in questi 10 anni di storia ne abbiamo fatte, e non abbiamo tenuto conto, perché poi alla fine molti dati statistici, molte informazioni nella continuità di tutto quello che abbiamo fatto si è andata perdendo come lacrime nella pioggia, insomma, per fare una citazione che fa tanto tanto tanto figo. E giustamente poi vedo, intanto saluto Walter Sbano in chat, che critica la nostra banca dati musicale. Hai ragione, ma questo è come diciamo ogni volta che rientriamo in onda, questa è la situazione, questa ci teniamo, anche perché abbiamo migliorato l'ascolto costante, diciamo, funziona così in generale. Questa cosa l'ho vista fare nelle radio, ma l'ho vista fare anche nelle radio meno professionali, anche se abbiamo collaborato, forse lavorato sarebbe il termine giusto, per un periodo di tempo in una radio, una web radio insomma non professionale romana, che si chiamava Hi-Fi Radio, che però insomma, pur non essendo, cioè essendo molto simile a quanto era, a come eravamo noi, alla nostra struttura, avevano provato a fare un grosso investimento, quindi avevano affittato un locale, avevano costruito la sala regia, la sala ovviamente degli speaker, e poi sotto c'era anche una sala editing per fare un certo tipo di discorso. Quindi avevano provato a fare un investimento anche insomma abbastanza importante, e nell'anticamera, nella parte insomma d'accoglienza, nella parte più amministrativa diciamo così, c'era sempre questa radio sempre collegata in sottofondo. Ed in effetti è quello che facciamo anche noi qua a Runtime Radio, cioè perlomeno qua nello studio principale, dove praticamente la radio è sempre nel sottofondo, perché questo ci aiuta a capire se ci sono problemi col server, se ci sono cose che non vanno, se ci sono blocchi, anomalie o perlomeno errori di programmazione che possono essere derivati dal sistema di regia automatica che comunque è sempre in funzione, con dei criteri, ovviamente con una programmazione che facciamo noi. Ecco, tenere sempre la radio in sottofondo aiuta anche a fare un lavoro di cernita, cioè nel senso che alla fine quello che riusciamo a fare è che quando sentiamo, ecco, c'è un periodo in cui noi abbiamo costruito questo enorme database da jamendo.com, che è questo sito francese, che è forse il collettore più importante di musica Creative Commons, e poi tra l'altro anche non solo ultimamente, perché comunque hanno creato una loro forma di licenza, hanno creato una loro licenza per la parte commerciale, per chi usa comunque i brani commerciali, e dentro Jamendo ci sono comunque moltissimi artisti, anche professionisti, insomma musica importante, però c'è anche tantissima. Io mi ricordo ai tempi di Tutto un Podcast c'era c'era uno italiano che faceva musica cristiana, che però praticamente lui prendeva il registratore e lui con la chitarra suonava la chitarra e lui cantava, una cosa indecente, e lui l'ha messa su Jamendo. E ovviamente Jamendo, non facendo una cernita, si basa sul presupposto che chi utilizza diciamo le musiche pod free che andavano bene per i podcast, roba già, faceva una cernita. Sì, è vero, noi quando facevamo i podcast sceglievamo le musiche, le andavamo a cercare, avevamo anche il tempo di farlo. Quando tu invece metti su una web radio praticamente quello che fai è prendere, andare in un posto dove sai che puoi scaricare anche per generi musicali una quantità tale di musica che ti permetta di avere una base sulla quale poter poi lavorare, anche perché noi comunque non è, siamo, in teoria non saremmo una radio musicale, siamo una talk radio che però negli spazi da una trasmissione all'altra ha anche ovviamente le musiche. In questa situazione ovviamente c'era tanta merda, cioè veramente merda, ma tipo dai russi che strillano a roba iper sperimentale, cose veramente indecenti. E quindi nello stare lì praticamente ad ascoltare, tu ogni tanto sentivi delle cose brutali e le levavi, chiaramente, insomma, cioè nel senso le andavi a levare sia dal software in cloud quello ovviamente che fa la regia, poi un giorno magari parleremo anche di questo, e ovviamente dalla database che hai praticamente sul sistema centrale, dove c'è il programma invece di regia, quello vero e proprio che utilizziamo poi quando facciamo le trasmissioni. Detto questo, insomma, ogni tanto arrivano e questa è un'altra di quelle cose che un po' mi fanno un po' adirare, perché poi in realtà ti rendi conto che praticamente anche le realtà più belle, no? come era Jamendo all'inizio, che comunque era veramente solo un collettore fondamentalmente, oggi è diventata un'attività commerciale fondamentalmente, perché appunto la vendita di licenze, perché permettono ovviamente agli artisti di non cedere gratuitamente le canzoni, ma cederle magari su donazione o su acquisto, e quindi ovviamente loro poi prendono la loro parte. E poi c'è tutta proprio una parte superiore, dove appunto tu acquisti una licenza che può essere di X all'anno, e puoi scaricare quelle che sono le musiche più pro, diciamo così, quindi quelle che sicuramente sono preselezionate per andare sulla radio, cioè chiaramente, cioè, per andare sulle radio, per andare su tutte quelle realtà che comunque non si possono permettere di trovarsi all'interno del database, nei file, nei blocchi, diciamo, scaricati della roba che sia delle zozzerie, perché chiaramente paghi a quel punto, e quindi suppongo ci sia una cernita. E ci sono quegli artisti che sono in quella fase di transizione, sono sicuramente dei professionisti, sicuramente hanno dei master di qualità, dei prodotti di qualità, però magari piuttosto che affidarsi al copyright, che oggi comunque è una scelta anche strategica importante, si affidano alla vendita diretta tramite licenza Creative Commons, che gli garantisce comunque la possibilità di sopravvivere, anche perché le licenze Creative Commons non necessariamente sono gratuite, chiaramente, insomma è una tra le varie cose dalle quali bisogna ragionare. Però tornando un po' su quello che, anzi iniziando un po' su quello che è il discorso della giornata, ovviamente noi quando siamo in movimento, se abbiamo l'opportunità, ovviamente che magari c'è linea, continuiamo ad ascoltare Runtime Radio, se no altrimenti ascoltiamo le radio che abbiamo sempre ascoltato. Tra l'altro, tra le varie radio che noi ascoltiamo, a parte Virgin Radio, che comunque è interessante, però essendo vincolata, diciamo, da un repertorio musicale più ristretto rispetto a una radio che non ha un vincolo specifico con un'etichetta, e ascoltiamo anche Radio Freccia, che Radio Freccia, per quanto sia una piccolissima costola all'interno di un gruppo radiofonico importante, comunque ha il suo bacino d'utenza, di ascolto, ha il suo numero di speaker come tutte le radio. Sapete che comunque uno speaker, diciamo, più di 2 o 3 ore non può fare, no? Non può superare quel tipo di blocco, a meno di particolari eccezioni. Comunque in linea massima, insomma, è un lavoro anche importante quello dello speaker, no? Perché comunque devi stare lì e parli, anche se nelle radio musicali parli sicuramente molto di meno di quanto parli in una talk radio, questo senza meno, no? E quando noi ascoltiamo Radio Freccia, che tra l'altro ricordiamo, Radio Freccia è la radio che ha un jingle solo, cioè nel senso, noi che siamo Runtime Radio, una radio che non esiste fondamentalmente, una radio che non ha nessun tipo di ambizione dal punto di vista anche commerciale, abbiamo circa 20 jingle e radio ID, cioè quindi identificativi radiofonici, e in Radio Freccia ce l'ha uno solo che è sempre quello e si ripete in continuazione, ed è una cosa che alla fine un po' ti storce la bocca. E tra i vari speaker, che sicuramente alcuni sono anche simpatici, sono alcuni che potrebbero tranquillamente lavorare in Runtime Radio, oppure Runtime Radio potrebbe tranquillamente essere Radio Freccia, cioè nel senso, veramente una qualità complessiva che un po' ci imbarazza, insomma, diciamo così. Ma questo rientra un po' nella filosofia cioè ho dato un occhio alla chat, ma chiaramente lo farò dopo quando metto il brano che sicuramente è bellissimo, immagino, no? Cioè voi vi immaginate quanto potrà essere bello il brano, ma magari capita brano buono, cioè non è detto, insomma, che sia necessariamente brutto. Stavo dicendo che ovviamente la qualità oggi ci ha rotto il cazzo, fondamentalmente ci ha rotto il cazzo la qualità, perché non ha assolutamente importanza. Era una riflessione che facevamo ieri mentre mandavo nel nostro gruppo di lavoro di OGM, ho mandato praticamente un contenuto registrato da una radio così al volo, perché c'era una cosa che volevo far sentire a loro, magari ne parliamo poi in OGM, quindi magari non svelo un po' questa cosa, però mi ha fatto ridere questa cosa che comunque avevo già sentito, sapevo che si sarebbe ripresentata, e anche se non faccio mai in tempo a registrarla interamente, comunque l'ho registrata per far sentire che la qualità ci ha rotto il cazzo, fondamentalmente, perché questo è un po' nell'era del digitale, è così, cioè nell'era del digitale è diventato così, che oramai sono diversi anni, insomma sicuramente più di 10-15 anni che è così, perché le tecnologie, essendo diventate più accessibili, tutti riescono a produrre contenuti e metterli in distribuzione, tutti compreso noi, quindi non è che noi ci leviamo da questo tipo di discorso, però è vero che almeno noi ci siamo applicati da un certo punto di vista, abbiamo cercato nel tentativo di emulare la professionalità, alla fine secondo me siamo anche arrivati a un certo tipo di livello. Ecco, secondo me ci sono delle radio oggi commerciali che questo tipo di discorso l'hanno tipo bypassato, magari lo speaker invece di costare 2000 euro al mese ti costa 700-800 euro al mese, quindi quello speaker, dopo che ha fatto lo speaker da te, va a fare qualcos'altro. E cioè questo ti permette ovviamente di tenere in piedi, magari abbattendo i costi, e allo stesso tempo abbandoni quello che è la qualità. Anche se ancora in Italia ci sono tantissimi corsi di speaking radiofonico, no? Importanti anche. Però evidentemente alla fine, ma io sento delle voci che veramente non so, voci addestrate, non so, voci secondo me qualitativamente sufficientemente abituate per poter far radio. Però oggi la radio è questo, cioè la radio in certi frangenti è così, ma non soltanto nelle piccole realtà come ad esempio, insomma, può essere appunto Radio Freccia, ma addirittura nelle radio più importanti, perché poi ovviamente oggi c'è anche quell'ennesimo fenomeno collaterale, che è quello dei talent, diciamo così, degli influencer anche. Però c'è una radio che noi abbiamo ascoltato, io e Michela in particolare abbiamo ascoltato per anni, tantissimi anni, e che sicuramente dopo la morte di Zucconi, che la dirigeva anche dal punto di vista giornalistico, è cambiata tanto, chiaramente progressivamente secondo noi in peggio, e che è Radio Capital, che oggi Radio Capital praticamente ha completamente stravolto il suo palinsesto, più in favore di un pubblico piuttosto che in favore di una qualità. E durante la mattinata ci sono tre blocchi fondamentali. Uno è la Lucarelli, Selvaggia Lucarelli. Il secondo blocco è Daria Bignardi e il terzo blocco è Ambra. Che questa cosa poi tra l'altro porta a una degradazione transitoria tra la Lucarelli a Ambra, perché non che non siano delle front woman, diciamo, in grado di gestire una trasmissione, che non abbiano una parlantina, ma sono delle persone non avvezze alla radio, cioè non sono dei professionisti della radio, e questo si sente incredibilmente, per quanto parlino, per quanto siano in grado, insomma, di sostenere il tempo in cui loro stanno facendo lo speech, comunque non sono delle professioniste della radio, non conoscono i tempi della radio, non conoscono i meccanismi anche della radio, quindi si adattano praticamente tramite qualcuno che sicuramente il regista radiofonico in quel caso le indirizza, diciamo così, un po' briglia sciolta, insomma. E questo secondo me alla fine, comunque, in particolare Ambra, che secondo me non è proprio avvezza a fare questo tipo di cose, quindi tenere per due ore alto anche il ritmo della qualità del parlato, chiaramente, insomma, si risente, insomma, su questo tipo di cose. E allora io mi fermo un attimo qua, metto il brano, perché praticamente voglio ripartire proprio da qua, proprio da Ambra. È una trasmissione in particolare, un pezzo di trasmissione in particolare che ho sentito mentre ero in macchina con Michela, che veramente mi ha fatto incazzare come poche cose al mondo. Sei su Runtime Radio, la Talk Radio Geek. Torna la stagione di Runtime Radio con vecchi appuntamenti e nuovi programmi derivanti dalla nostra grande storia di podcaster. Ogni giorno alle ore 9 e alle ore 15 una puntata casuale di Techno Pills di Alex Raccuglia. Alle ore 11 e alle ore 17 un episodio derivante da tutti i nostri programmi videoludici dal 2010 ad oggi. Alle ore 13 e alle ore 19 un episodio di Data Nightmare di Walter Vannini e Snap, architettura imperfetta di Roberto Marin. Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. www.runtimeradio.it. Avevo voglia di cambiare vita, dimenticare i soliti odori, non salire più su quella macchina. vita. Il portacenere che straripava 7 minuti della mia vita, che ogni sigaretta mi ha portato via. E cominciava poi l'ultimo giro, e la giornata che finiva lì. E adesso che io so che cosa posso o non posso cambiare mai, rosso, giallo, verde, sono libero. Sento il mare e il rumore delle onde che si infrangono, da solo insieme a me, il giusto numero. Rosso, giallo, verde, questo è Alia. Vedete che alla fine anche gli italiani partecipano al grande progetto del Creative Commons, e noi lo leviamo perché veramente, poi tutto sommato mi fa anche simpatia, io devo dire la verità, mi fa anche simpatia perché non lo so, cioè sta lì e lui ci prova, sta lì, ma c'ha una voce anche simpatica, cioè non è che, però è stonato. E poi canta questa canzone che veramente non vuol dire niente. Tra l'altro, rileggendo la chat, Sbano parla del pezzo in cui Di Maio parla del mandato zero. In realtà, mentre riascoltavo la sigla, ma questa è una cosa che già pensavo, poi ne avevo già parlato con Francesco, la sigla in teoria andrebbe aggiornata, perché tra le cose che ci sono in questa sigla, in realtà oggi ci sarebbero sostituibili tranquillamente con tante altre. Però un po' ci sono anche affezionato. E devo dire che questa cosa del mandato zero pare già che siano passate chissà quanto tempo. Quindi alla fine fa un po' così, no? Fa un po' strano. Comunque, tornando a noi, tornando al nostro discorso principale, niente, mi sono incappato a sentire la trasmissione di Ambra su Radio Capital, che è stata interessante, perché era una trasmissione, basso un po' la base perché mi irrita l'orecchio, tanto attenzione perché si potrebbe essere impallato o bat, attenzione, ditemi se mi sentite, scrivete sì, ti sentiamo. E c'è da dire che abbiamo un dovere morale di non dimenticare le minchiate del mandato zero, sì, no, infatti ho detto tutto sommato, appunto, lo lascio perché mi interessa. Insomma, vabbè, c'era questa trasmissione. Io, ragazzi, perché a volte mi incazzo. Il mondo dello spettacolo è un mondo molto particolare, soprattutto in Italia, dove a volte non viene riconosciuta anche la dignità, no? Dal punto di vista professionale, sindacale. Insomma, ci sono tutta una serie di professionalità, diciamo così, che vengono un po' lasciate nel limbo, nel margine tra l'esisto e non esisto, le maestranze anche, no? Che spesso devono litigare, diciamo, insomma, per poter sopravvivere, a meno che non sei entrato in un meccanismo, in un giro di fiducia con alcune produzioni, alcuni produttori e via dicendo, no? E questa situazione di disagio, chiaramente, è una situazione importante, perché chiaramente in un contesto dove già normalmente in una società che funziona totalmente in Italia lo spettacolo viene sacrificato, no? Lo spettacolo e lo sport in generale, ok? Poi dopo facciamo un discorso a parte sullo sport che in qualche maniera, no? Sopravvive, no? Lo spettacolo invece in Italia, ecco, una cosa che ha detto Ambra in questo suo intervento radiofonico, in questa sua parte dove parlava dello spettacolo, viene considerata la ricreazione. Quindi è come se lo spettacolo di per sé, la cultura, non avesse una dignità, non fosse abbastanza importante, perché il problema socio-economico è maggiore. Ma siccome che la cultura e lo spettacolo fanno parte del contesto all'interno di una società, contesto anche importante, è chiaro che secondo me questo è un discorso anche miope, anche un atteggiamento di per sé sbagliato, che alla fine a volte è diventato incomprensibile. E questo modo di considerare un tipo di settore socio-economico, industriale anche, perché comunque alla fine un'industria, in quel modo, alla fine finisce per non portare investimenti, non portare supporto, ecco, a quel tipo di discorso lì. E ovviamente nel non portare supporto, non portare aiuto, chiaramente c'è tutta una serie, una fascia di operatori professionali che si trova in difficoltà, si è sempre trovata in difficoltà. Molti si barcamenano. Io ho conosciuto e conosco ancora tantissime persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, in particolar modo in quel limbo che si trova tra l'indipendente e il professionale, che comunque alla fine porta a movimento anche quello, no? Perché al di là del cortometraggio low budget o a budget zero, dove le persone fanno qualcosa per pro bono, diciamo così, per aiutarsi, perché se vanno bene, cioè comunque anche il meccanismo del cortometraggio porta una sorta di piccolo indotto che aiuta appunto a queste figure professionali, alle maestranze, di fare esperienza e di acquisire anche un piccolo compenso, no? Quindi alla fine, tra le produzioni che non ti chiamano e i tantissimi piccoli lavori, tante persone scelgono anche questi tipo di piccoli lavori, considerando che poi però in realtà degli investimenti all'interno del mondo del cinema, ad esempio, vengono fatti. Se appunto le produzioni rispettano determinati criteri sul territorio italiano, utilizzando attori italiani, produzioni italiane, sostenendole, ovviamente tutto questo giro di soldi di produzione alla fine dovrebbe portare nell'indotto, chiaramente, a far riciclare i soldi anche nelle produzioni minori, no? E invece questo non succede. Quindi le produzioni minori sono quelle che si barcamenano nel modo più assoluto. E anche in questo caso, anche nel mondo dello spettacolo, diciamo che il Covid avrebbe potuto cambiare alcune cose, avrebbe potuto cambiare alcuni meccanismi, diciamo, no? Sai, quando diciamo che il Covid avrebbe potuto, che ne so, migliorare la nostra società, soprattutto perché in realtà nel grande mare magnum di supporto finanziario che lo Stato ha elargito, diciamo, all'interno della società per sopportare le varie attività, gli vari imprenditori, i vari liberi professionisti o anche le famiglie in difficoltà, lo spettacolo è stato completamente bypassato inizialmente, perché è la ricreazione, quindi sti cazzi, no? Cioè, ma un paese che basa che soltanto di spettacolo, cultura e turismo potrebbe diventare forse la seconda potenza mondiale, noi abbiamo questo atteggiamento, questo approccio miope, che deriva anche questo da un'estrazione culturale, da una visione culturale delle cose, che è veramente banale, no? Perché quel politico non si metterebbe mai a investire in un settore dove poi la gente direbbe come quelli che fanno, quelli giocano, mica lavorano, giocano. E il Covid chiaramente ha massacrato il mondo dello spettacolo, e sono sopravvissuti quelli che già sopravvivevano prima, quelli che rientrano nel meccanismo SIAE, che ricordiamo paga ovviamente i diritti d'autore, gli artisti, in un sistema meritocratico talmente barocco che alla fine quelli che prendono i soldi sono solo i soliti, insomma. Conosco musicisti che lavorano professionalmente anche a livelli importanti, anche a livelli internazionali, all'interno del meccanismo SIAE, e vabbè, cioè nel senso, forse una volta veramente ci faremo una puntata su questa cosa. Ne parlammo tantissimi anni fa su Di Tutto un Podcast, sarebbe il caso di tornare a parlarne anche di questa cosa. Sopravvivono le grandi realtà, diciamo così, le quali in qualche maniera si sono fatte portavoce di tutte quelle realtà che invece poi alla fine forse hanno avuto difficoltà, no? E quindi hanno fatto sti flash mob, sti talk, questi streaming in Zoom, hanno fatto queste grandi aperture verso questo tipo di discorso, sono messi lì a parlare in nome del mondo dello spettacolo, perché giustamente, da un certo punto di vista, perché hanno visto le brutte, diciamo così. E Ambra stava facendo sta trasmissione biastimando contro il sistema che non aiutava lo spettacolo, le persone che lavoravano nel mondo dello spettacolo e le maestranze che lavorano nel mondo dello spettacolo e i tecnici e i costumisti e tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e che si trovavano in difficoltà anche prima del Covid. E che quando tu facevi lo spettacolo al teatro, quando tu facevi il film al cinema, quando tu eri sulla cresta dell'onda anche dal punto di vista economico, te ne preoccupavi dessa gente? Cioè oggi io vedo, ma tu quando facevi il film, le tue maestranze erano tutte sotto contratto, te sei mai preoccupato di andare a vedere come erano i contratti delle persone che lavoravano, la costumista, l'aiuto da costumista, lo stagista? Te sei mai preoccupato di andare a vedere quando andavi a fare le tue prime nei grandi teatri, che poi voglio dire, Ambra al teatro, non ne parliamo di questa cosa, però, e torniamo sempre al fatto che la qualità c'è rotto il cazzo, ma questo lo dicevamo prima, ti sei mai preoccupato di vedere se l'usciere era pagato bene, se quello che la sarta, oppure l'aiuto della sarta, oppure tutte quelle persone, il tizio che si arrampica per sistemare le luci, tutte quelle persone che all'interno di quel tuo mondo ti permettevano di fare le cose che facevi? No, dico, tu te sei mai preoccupata prima? T'ho mai sentito parlare di sta cosa io prima, a te, Ambra Angiolini, Ambra, come ti chiami, manco mi ricordo, t'ho mai sentito parlare di questa questione? No, oggi diventano tutti dei Rubin Hood, tutti dei portavoce del problema del mondo dello spettacolo, perché all'interno ci sono delle persone, degli operai che non ce la fanno, non ci hanno le famiglie, non ce la fanno, che è giusto, ma è ipocrita. È ipocrita, perché il suo problema, voi, quando c'erano le vacche grasse, no? non ve lo inculavano proprio, cioè, questo tipo di problema. Non ve lo inculavano proprio, cioè, stavate lì proprio, non sapevate manco, non ci pensavate. Perché io, che l'ho vista certe realtà, anche a piccoli livelli, la differenza dell'attore che sale sul palco o viene sul set, e anche se l'attore del quartiere de sto cazzo si sentivano. Io mi ricordo un cortometraggio, io facevo l'editing della titolazione di un cortometraggio di cui ero produttore esecutivo. E mi ricordo che a un certo punto un giorno mi chiamò il regista dopo il premontato finale, diciamo così, insomma, quello che andrebbe. Dice, sai, c'erano due attori protagonisti che apparivano nello stesso momento nei titoli di testa. E dice, guarda, lei mi ha chiesto se poi mette prima il suo nome. Ho detto, vabbè, li devo invertire, cioè, come. No, devi mettere prima il suo nome e poi appare il nome di lui. Ho detto, ma questo oltre che mi sposta tutto il timing della titolazione di testa, insomma mi rompe anche il cazzo, perché dice, no, dice, io lo so che tutte bestemmierai, però è così, insomma, e così fu poi alla fine, perché certo. Ma questo nell'ambito di situazioni dove ho visto anche personaggi importanti avere approcci umili, preoccuparsi anche degli altri, mangiare il proprio cestino con gli operai, con gli operatori, con i ragazzi, con i tecnici, con quelli più giovani o via dicendo, così come ho visto persone che non se li inculavano de pezza. Non si inculavano di pezza a nessuno, arrivavano, facevano, se ne andavano, e di sicuro nel loro andare, venire, non partecipavano nell'ambiente, nel mondo del progetto, in quel contesto, no? Stavano lì e c'erano, cioè nel senso semplicemente c'erano, e questa cosa mi ha sempre fatto incazzare. E senti, capito che adesso sbandierano il poverino che accende le luci, quello che porta le sedie. Mortacci vostri, mi viene da dire, proprio. So che dovrei mettere il disclaimer esplicit forse su sto podcast, boh, non lo so, vabbè. Comunque, ecco, mi viene da dire mortacci vostri, perché non ci avete proprio ambra che si mette a fare le crociate sociali. E da adesso in poi sarebbe bello, ma siccome che poi Radio Capital oramai la gente non l'ascoltano più, il pubblico della volta che era magari che era concentrato, che se lo ricorda quello che tu hai detto, non che si mette lì, dice, oh, la prossima volta quando fra un po' speriamo le cose torneranno alla normalità, torneranno le vacche grasse, voglio vedere Ambra che all'inizio di ogni spettacolo mi viene a dire, però regà, ricordatevi o tsunami. No, questa è un'altra cosa, non c'entra niente. Vabbè ragazzi, però ricordatevi le maestranze, diamo una mano. Io quanto prendo io per fare sto spettacolo? 10.000? Vabbè, me prendo 9.000. Prendo 9.000 perché 1.000 anch'io le ridistribuisco. Perché, oh, raga, famosa capisse. Cioè, so buoni sempre tutti quelli che fanno le lotte con... Stavo per dire una cosa, poi dopo Michela s'arrabbia, insomma. Però, forse non è politicamente corretto. E quindi, niente, Ambra... Facce sapere, insomma, la prossima volta che fai uno spettacolo, che torni al teatro, se fai un'introduzione dicendo un disclaimer, aiutiamo le persone perché c'hanno bisogno, che ne so. Dal 2010 ad oggi, sotto diverse forme e con diversi nomi, questo collettivo di persone e amici ha prodotto migliaia di ore di contenuti in podcast e in live. Dalla passata esperienza di Italian Podcast Network per arrivare a Runtime Radio, questa realtà ha superato i 2 milioni di download complessivi. Nei periodi di difficoltà abbiamo cercato di fare compagnia alle persone con la nostra presenza, le nostre idee e le nostre risate. Se sei qui ad ascoltare, sicuramente sei un affezionato ascoltatore e di certo avrai dato il tuo contributo. Ma non dimenticare mai che tutto questo si regge solo sulla passione di tutti noi della radio e che qualora ne avessi la possibilità e la voglia, anche tu puoi contribuire a sostenere economicamente Runtime tramite un versamento ricorrente su Patreon o un regalo una tantum tramite PayPal. Per sapere come fare, basta andare sul nostro sito www.runtimeradio.it e cliccare sul pulsante anche io. Sostieni Runtime per un'ennesima nuova stagione di grandi contenuti. Que hoy me fuera a enamorar. Brillas a distancia y no puedo parar dejar de mirar. Ojos de color, sonrisa fugaz. Desde tu interior te siento vibrar sirena de mar. Yo quiero conquistar tus labios, besar, llevarte a soñar. Quiero recorrer tu piel morena. Esta noche es luna llena, el corazón le ha dado vuelta a la razón. Suena, muero, esta escena es mi condena. Estoy atrapado entre un océano de amor y tu bella sirena. Morena, morena, tan bella, dame más, no puedo parar. Sirena, me llenas, dame más, no quiero parar. Afortunado soy de verte llegar, miro cómo miras a los demás, me siento especial. Dame la señal que yo quiero estar a tu lado y darte, darte mucho más, más, más. Déjame entrar, yo quiero conquistar tus labios, besar, llevarte a soñar. Quiero recorrer tu piel morena. Esta noche es luna llena, el corazón le ha dado vuelta la razón. Suena, muero, esta escena es mi condena. Estoy atrapado entre un océano de amor y tu bella sirena. Morena, morena, tan bella, dame más, no puedo parar. Sirena, me llenas, dame más, no quiero parar. Dame más, Alfonso Lugo, ragazzi. Alfonso Lugo, che lo ricordiamo per delle esibizioni importanti, insomma, fatte durante il periodo del lockdown, quando lui andava con la chitarra sotto la metro di Madrid e chiedeva due speech, due speeches, massa, quanta banalità retorica, quanti luoghi comuni, che bruttezza, che bruttezza. Questa radio che oramai ha perso, diciamo, la sua sensibilità, la nostra mafia che ha perso la sua sensibilità. Ieri sera siamo andati al cinema, non so da quant'è che non andavo al cinema, non mi ricordo neanche più. Siamo andati ovviamente a vedere Dune, di cui non parlerò chiaramente, non mi esprimerò, non dirò, non estrinsecherò per nessuna ragione al mondo, ma invece voglio parlare del cinema, perché... Allora, prima di tutto, un'altra cosa, insomma, che durante questo periodo si è detto spesso e volentieri in radio e sulla quale mi trovo molto d'accordo, è che nel Green Pass, accessi, tamponi, vaccini, vaccinate, vi ricordate sempre di vaccinarvi, alla fine quello che non si fa notare in maniera importante è il fatto che lo sport e lo spettacolo, che fanno entrambi parte, insomma, della stessa industria, che è quella appunto dello spettacolo, sono gli unici ambienti dove è stato concesso l'accesso a percentuale. Gli unici. Non c'è nessun altro tipo di attività o contesto o situazione dove c'è oggi l'accesso a percentuale. Addirittura, ovviamente, pure nei ristoranti, no? Sapete che una volta c'era sta cosa dentro così, de fuori colà, e via dicendo. Oggi soltanto cinema e teatri e stadio, e quindi impianti sportivi, hanno la possibilità di fare l'accesso su percentuale. È una cosa che un po' mi lascia con la perplizia, no? Diciamo così, perché alla fine, perché io posso riempire un centro commerciale e poi non posso riempire uno stadio? Soprattutto perché se nello stadio alla fine entra la gente, boh, nello stesso modo in cui... Cioè, nel senso, in teoria mascherine, Green Pass, poi giustamente la gestione della questione è tutto un altro discorso e qui mo ci arriviamo, no? Perché giustamente Walter Sbano nelle nostre conversazioni private ha detto: ah, io sabato vado al cinema, ma so che se vedrò qualcuno che si leva la mascherina poi sbrocco. Il problema è che se tu vai al cinema oggi... Allora, finisco prima l'altro discorso. Allora, innanzitutto pare che a febbraio si arriverà all'80%. Che poi, tra l'altro, io sul cinema, sui teatri, voglio vedere, insomma, come funzionerà questa cosa, però vabbè. E il problema è che questa questione della percentuale è penalizzante, giustamente, no? Pare che praticamente ci sia questa cosa che sia successa a Pino Insegno in teatro, dove praticamente sapete che ci deve essere il distanziamento di un metro, no? 50% e distanziamento di un metro. E ci aveva praticamente a teatro una fila completamente vuota, perché questa fila non garantiva il distanziamento di un metro ma di 99 centimetri. Io lo capisco che le regole servono per dare appunto delle regole, per mettere in sicurezza, per fare tutto quello che vi pare a voi, però poi dopo diventa ridicolo, no? Il fatto che tu questa cosa la fai cioè per un centimetro, è come l'autovelox, no? Dopo tu dai, come posso dire, demandi praticamente una tua responsabilità, che è quella di accertare la responsabilità di una persona nell'aver fatto una cosa piuttosto che un'altra, e praticamente che fai? La delega è una macchina che dice: sei andato di un chilometro sopra il limite di velocità, io ti faccio la multa. È la stessa cosa, cioè, qui c'è un centimetro, leva tutta sta, che mentre che la multa è comunque una cosa che fai a una persona perché comunque ha infranto una regola invece per un centimetro gli levi completamente una fila, gli levi dei soldi, cioè comunque alla fine continuiamo a non sopportarlo poi questo mondo dello spettacolo. Questo è una cosa che va comunque insomma tenuta in considerazione, non è una cosa così banale come possa sembrare, però poi alla fine comunque ci sono delle regole. Regole sono che tu entri dentro il cinema col Green Pass che io ragazzi faccio fatica a pensare a grandi strutture come l'UGC, quindi grandi catene grandi catene di sale cinematografiche, sì appunto, che non hanno uno scanner per questo tipo di cose, che non ci sia qualcuno che non abbia fatto. Avete visto mai i palmari, quelli dei postini dove firmate con... sapete che cosa sono quelli? Quelli sono i vecchi Apple Newton, no? Che sono stati riconvertiti, tutti quei palmari del 15-20 anni fa, che sono stati riconvertiti per fare quella cosa lì. Ecco, io mi domando come si possa non fare un dispositivo nel quale tu passi sotto il tuo Green Pass e vieni identificato, poi al massimo ti chiedono il documento, tra l'altro documento che non ti chiedono, perché invece no, qui ci stanno sti tre cristi di cui uno straniero con sti cellulari in mano con la cover del telefonino che gli passa davanti alla telecamera e via dicendo, che fanno una scansione di sti QR code e bestemmiano perché a volte li pia, a volte li pia, insomma, cioè, io sta cosa più che le norme che a volte sono smisurate, sono sbagliate, è proprio questo atteggiamento del lo dobbiamo fare e quindi lo faremo male perché ci sta sul cazzo. Cioè proprio è una cosa, perché io lo posso capire il ristorante, ristorantina, la trattoria da zii Peppe, ma non una grande catena, una grande organizzazione, no? questi cellulari a Michela non glielo prendeva, a un certo punto Starbo gli ha preso il Green Pass, è andato nella cassa, ha preso un pezzo di plastica tipo come se fosse una copertina di plastica, ci ha messa sopra, ha rifatto la scansione e gli è riuscito. Dice no, perché tu lo devi plastificare. Vabbè, allora la plastificazione rende leggibile il QR code, non so secondo quale logica, però può essere pure, ora non voglio entrare nel merito. Entri dentro la sala dove praticamente succede che se tu sei un blocco di tre persone puoi comprare i tre posti vicini, e poi ci deve essere un distanziamento di un posto tra te e le persone successive, che un posto per me non è un metro, per me poi dopo può essere pure che mi sbaglio. E poi dentro la sala bisogna stare con la mascherina, quindi si presuppone che dentro la sala siano tutti covid free, diciamo così, anche se non è vero, perché il diciamo che il Green Pass non è legato al vaccino ma è legato anche al tampone, quindi non è assolutamente detto, ma poi non è detto neanche col vaccino, diciamo così. E quindi tu dentro la sala per un film come Dune che dura 2 ore e mezza devi stare con la mascherina, che ragazzi io l'ho fatto, le persone che stavano davanti a noi l'hanno fatto, Michela l'ha fatto, Marco l'ha fatto, insomma meno male le persone lo hanno fatto, però bisogna dire è impegnativo stare 2 ore e mezza dentro una stanza chiusa dove non c'era manco l'aria condizionata, faceva pure caldo, insomma è stato impegnativo. insomma, come, come tipo di cosa, bisogna, bisogna dirlo, però bisogna farlo, lo si fa con diligenza, disciplina, e lo si fa, infatti l'abbiamo fatto, ma ovviamente qualcuno non l'ha fatto, che poi è anche questo un atteggiamento, perché se tu c'hai il Green Pass, sei entrato al cinema, c'hai la mascherina, il fatto di levartela, anche questo è un vezzo, cioè nel senso, io faccio come cazzo mi pare. E ritorniamo al discorso della libertà, che un giorno, lo prometto, la farò quella puntata che avevo chiesto a tutti quanti il vostro contributo su che cos'era la libertà. Perché, perché sta cosa della libertà è una cosa che è sfuggita di mano. Cioè non, non può parlare di libertà una persona che non ha mai aperto un libro, cioè secondo me non lo può fare, è proprio una cosa che, che è, dovrebbe essere vietata dalla legge. Hai letto un libro? Sì, quale libro? Fammi vedere, quale, fammi, dimmi, dimostramelo, hai letto? Sì, allora puoi parlare di libertà, se no no, t'arresto, porca puttana, capito? E vabbè, e quindi c'erano questi qua senza mascherine, poi nessuno gli dice niente perché ti dovresti alzare, dovresti fare un casino, dovresti chiedere a qualcuno di intervenire, via dicendo. Non lo fai, non lo fai, oggettivamente non lo fai, cioè nel senso, anche se il Medi 15 anni fa l'avrebbe fatto, e anche sti cazzi, se ho visto il film, siamo usciti, tutto a posto. Però ecco, se andate al cinema lo dovete mettere in conto, lo dovete mettere in conto, eppure questo ti dimostra quanto poi le cose sono gestite a cazzo, come dicono i francesi, perché se tu devi far rispettare la regola, la devi far rispettare. Perché l'omino che entra dentro per vendere le bibite ce l'hai, però uno che fa un check, insomma un controllo ogni tanto, che pia si infila per dare un'occhiata se la gente si mette le maschere, no, quello no, perché sennò poi rompi il cazzo al pubblico, no, ma questi hanno pagato, ma che ce frega, insomma, no? Ecco, questo è il mio ultimo argomento. Oh, volevo parlare dello sport, ma in realtà alla fine sono il 52, quindi facciamo una cosa, metto l'ultimo brano e poi andiamo ai saluti, così c'ho tempo anche di vedere quello che avete scritto in chat, ovviamente, sempre se, perché poi c'è questo problema che, e questo ve lo dico proprio come suggerimento per il futuro, quando voi fate la radio, appunto, quando fate la radio, vi suggerisco di mettere il database in un hard disk SSD primario, perché se no i tempi di accesso c'hanno sempre qualche problema. Ovviamente questo non è un brano, eh? Cioè, ecco, musiche stock, chiaramente. Però vabbè, beccatevela un minuto, poi ve la levo. E salutiamo Mr. Crinkle, che dice buongiorno un cazzo a noi, buongiorno un cazzo a te, che addirittura sei qui per ascoltare la nostra trasmissione, e come dicono quelli saggi, ragazzi, ma chi te lo fa fa? Chi te lo fa fa? E vabbè, dai ragazzi, queste sonorità africane che ci riportano a tempi antichi in cui eravamo in Africa, non so. Va bene, va bene, va bene ragazzi. Allora, io, sapete che non mi ricordo se faccio così che succede? Ah, ok, a posto. perché è un po' che non faccio un buongiorno un cazzo e mi dimentico delle cose. Allora ragazzi, innanzitutto ancora complimenti a Davide Gatti per i suoi 100.000 downloads con Survival Hacking, altro ennesimo importante risultato di Runtime Radio che ci che siamo felici insomma di poter registrare. Vi ricordo che domani torna Leo Vargion dalle 7 alle 8 con una trasmissione con il mio coordinamento, perché lui sarà in differita, quindi faremo tutta la trasmissione in trasferta, tutta una cosa tecnica. Vi ricordo invece che questa sera forse dovrebbe, ma tenetevi insomma incollati qui alla nostra chat, perché questa sera dovrebbe tornare Runtime by Night. Attenzione, quindi poi si parla sempre che, sapete, no? Quindi chi vuole partecipare a Runtime by Night, vuole anche entrare in diretta con noi o ci vuole mandare messaggi vocali o soprattutto ci vuole ascoltare per sapere di che cosa parliamo e magari vuoi contribuire nella chat dirette Runtime qui su Telegram, siete i benvenuti. E questo è quanto, insomma. Altre cose non mi ricordo di doverle dire. Ringrazio ovviamente tutti quelli che sono stati attivi in chat, quindi Michela, Walter, Francesco e ovviamente Mr. Crinkle che insomma ci è venuto a trovare alla fine salutandoci. Ma no, oggi è giovedì, hai ragione, domani sera, insomma, allora, quindi ricapitoliamo. Ah, ecco perché vedi c'era, hai ragione. Poi mette il meme della vena che esplode nel cervello. Hai ragione, l'ictus imperversa. Allora, vi saluto ricordandovi che questa sera alle 21.30 c'è Quando Eravamo Futuro e parleremo di Il Prigioniero e serie televisive inglesi annesse e connesse, che è una cosa abbastanza interessante. Domani dalle 7 alle 8 ovviamente Leo Vargion con Il Mattino della Loro in podcast, e domani sera alle 11 penso, perché anticiperemo un pochino e staremo insieme fino a mezzanotte e mezza luna, insomma non voglio andare oltre, ci sarà ovviamente Runtime by Night. Detto questo, continuate a seguire Runtime Radio, www.runtimeradio.it, chiaramente dove potete cliccare anche sul pulsante anch'io e dare un sostegno, un supporto alla nostra radio. E vi ricordo invece che sabato mattina dalle 8 e mezza alle 9 e mezza c'è Disordinati Informatici con la versione del sabato, dove saremo io e Michela, credo, insomma non lo so, non mi ricordo. E detto questo, insomma, vi ringrazio per l'ascolto, suggerite anche temi per Buongiorno un Cazzo, anche se ce ne ho dei temi, ma poi ogni volta che vengo qui alla console mi metto, accendo il microfono, mi vengono in mente cose e comincio a parlare di cose che assolutamente non c'entrano niente. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo con tutta la programmazione di Runtime durante l'arco della giornata. Ascoltatevela, ma soprattutto vi ricordo insomma, questa sera Quando Eravamo Futuro, con me Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo e Davide Gatti. A Simone Pizzi è tutto, ciao!